Vedendo che dovevo restare a lungo davanti ai mosaici raffiguranti il battesimo di Cristo, mia madre, sentendo il fresco glaciale che scendeva nel battistero, mi gettava uno scialle sulle spalle. Quando ero con Albertina Balbec, credevo che la mia amica rivelasse una di quelle illusioni inconsistenti che riempiono la testa di tante persone incapaci di pensare con chiarezza quando mi parlava del piacere, secondo me privo di qualsiasi fondamento, che avrebbe provato vedendo assieme a me un certo dipinto. Oggi sono quantomeno sicuro che esista il piacere, se non di vedere, almeno di aver visto una cosa bella assieme a una certa persona. Un'ora è arrivata per me in cui, se ricordo il battistero, davanti ai flutti del Giordano dove San Giovanni immerge il Cristo, mentre la gondola ci aspettava davanti alla piazzetta, non mi è indifferente che accanto a me in quella fresca penombra ci fosse una donna drappeggiata nel suo lutto con il fervore rispettoso ed entusiasta della donna anziana che si vede a Venezia nella Sant'Orsola del Carpaccio, e che questa donna dalle guance rosse, dagli occhi tristi nei suoi veli neri, e che niente potrà mai far uscire per me da quel santuario dolcemente illuminato di San Marco, dove sono sicuro di ritrovarla perché ha lì il suo posto riservato e immutabile come un mosaico, sia mia madre. Carpaccio, che ho appena nominato e che era il pittore al quale, quando non lavoravo a San Marco, andavamo più volentieri a far visita, per poco un giorno non rianimò il mio amore per Albertin. Vedevo per la prima volta il patriarca di grado che esorcizza un indemoniato. Guardavo lo stupendo cielo carnicino e viola su cui si stagliano quegli alti camini incrostati la cui forma svasata e il rosso espandersi da tulipani fa pensare a tante Venezie di Whistler. Poi i miei occhi andavano dal vecchio rialto in legno a quel ponte vecchio del XV secolo i cui palazzi di marmo sono ornati di capitelli dorati. Tornavano al canale, dove le barche sono guidate da adolescenti in vesti rosate, in tocchi ornati di aigrette, simili, fino a confondersi, a una certa figura che in vero evocava il Carpaccio nell'affascinante leggenda di Giuseppe di Sert, Strauss e Kessler. Infine, prima di lasciare il quadro, i miei occhi tornarono alla riva, formicolante di scene della vita veneziana dell'epoca. Guardavo il barbiere che asciuga il rasoio, il negro che trasporta il barile, le conversazioni dei musulmani, dei nobili signori veneziani in larghi broccati, in damaschi, in tocco di velluto color ciliegia, quando sentii al cuore come un improvviso, leggero morso. Addosso a uno dei compagni della calza, riconoscibile per i ricami d'oro e di perle che tracciano su una manica o sul colletto l'emblema della gioiosa compagnia a cui erano affiliati, avevo riconosciuto il mantello che Albertine s'era messa per venire con me in vettura scoperta a Versailles. La sera in cui ero così lontano dall'immaginare che non più d'una quindicina d'ore mi separavano dal momento in cui avrebbe lasciato casa mia. Sempre pronta a tutto, quando le avevo chiesto di uscire, quel triste giorno che nella sua ultima lettera avrebbe ricordato come due volte crepuscolare perché scendeva la notte e perché stavamo per separarci, si era gettata sulle spalle un mantello di fortuni che il giorno dopo aveva portato con sé e che non era mai più tornato poi nei miei ricordi. Era in un quadro del Carpaccio che l'aveva preso il geniale figlio di Venezia. Era dalle spalle di quel compagno della calza che l'aveva tolto per gettarlo su quelle di tante parigine che certamente, come me sino a quel momento, ignoravano che il suo modello era lì, in quel gruppo di signori, in primo piano nel patriarca di grado, in una sala dell'Accademia di Venezia. Avevo riconosciuto tutto. E per un attimo, poiché il mantello dimenticato m'aveva restituito perché lo guardassi gli occhi e il cuore di chi stava quella sera per andare a Versailles con Albertine, fui invaso per qualche istante da un sentimento torbido e subito dissipato di desiderio e di malinconia. C'erano poi dei giorni in cui con mia madre non ci accontentavamo dei musei e delle chiese di Venezia e così una volta che il tempo era particolarmente bello, per rivedere quei vizi e quelle virtù di cui Swan mi aveva regalato delle riproduzioni che probabilmente erano ancora appese nel salotto studio di Combray, ci spingemmo sino a Padova. Dopo aver attraversato in pieno sole il giardino dell'arena, entrai nella cappella di Giotto, dove l'intera volta e il fondo degli affreschi sono così azzurri che la giornata radiosa sembra aver varcato anch'essa la soglia assieme al visitatore per mettere all'ombra e al fresco per un istante il suo cielo puro. Il suo cielo puro fatto appena più cupo dall'essersi sbarazzato delle dorature della luce, come in quelle brevi tregue che interrompono le più belle giornate quando il sole, senza che si siano avvistate nuvole, volge altrove il suo sguardo e per un momento l'azzurro, ancora più dolce, si incupisce. In questo cielo, trasportato sulla pietra livida, volavano angeli che vedevo per la prima volta, perché le riproduzioni regalatemi da Swan erano solo delle virtù e dei vizi, e non degli affreschi che rappresentano la storia della Vergine e di Cristo. Ebbene, nel volo degli angeli, ritrovavo la stessa impressione di azione effettiva, letteralmente reale, suggeritami allora dai gesti della carità o dell'invidia. Per quanto sia il fervore celeste, o almeno la saggezza e l'applicazione infantili con cui uniscono le loro piccole mani, gli angeli sono rappresentati all'arena come volatili d'una specie particolare e realmente esistita, che avrebbe dovuto figurare nella storia naturale dei tempi biblici ed evangelici. Sono esserini che non mancano di volteggiare davanti ai santi quando questi passeggiano. Ce n'è sempre qualcuno che s'attarda sopra di loro, e poiché sono creature reali ed effettivamente volanti, li vediamo decollare, descrivere delle curve, eseguire con estrema sicurezza dei looping, piombare verso il suolo a testa in giù a forza d'ali che consentono loro di mantenersi in posizioni contrarie alle leggi della gravità e fanno pensare assai di più a una varietà scomparsa d'uccelli o a giovani allievi di Fonk intenti a un'esercitazione di volo planato che non agli angeli dell'arte del Rinascimento e delle epoche successive, le cui ali non sono più che emblemi e il cui contegno è per lo più identico a quello di personaggi celesti non alati. Tornando in albergo, vi trovavo delle giovani donne che, soprattutto dall'Austria, venivano a passare a Venezia le prime belle giornate di quella primavera senza fiori. Ce n'era una che non ricordava Albertine nei lineamenti, ma che mi piaceva per la stessa freschezza di colorito, lo stesso sguardo ridente e leggero. Ben presto mi accorsi che cominciavo a dirle le stesse cose che dicevo nei primi tempi ad Albertine, che le dissimulavo lo stesso dolore quando mi diceva che il giorno dopo non sarebbe venuta, che andava a Verona e la voglia, subito, d'andare a Verona anch'io. La cosa non durò. Doveva ripartire per l'Austria, non l'avrei più rivista, ma già vagamente geloso, come quando si comincia a innamorarsi, guardando il suo viso incantevole ed enigmatico, mi chiedevo se anche a lei piacessero le donne. Se quel che aveva in comune con Albertine, quella chiarezza del colorito e dello sguardo, quell'aria di amabile franchezza che seduceva tutti, e consisteva più nel suo non cercare in alcun modo di conoscere le azioni degli altri, cui non portava il minimo interesse, che nel confessare le proprie, alla cui dissimulazione provvedeva invece con le più puerili menzogne, se tutto questo non costituisse alcuni caratteri morfologici della donna alla quale piacciono le donne. Era questo in lei, senza che potessi afferrarne razionalmente il motivo, a esercitare su di me quel fascino, a insinuarmi quelle inquietudini, causa più profonda forse della mia attrazione per quanto porta verso ciò che farà soffrire, dandomi ogni volta che la vedevo tanto piacere e tanta tristezza come gli elementi magnetici che non vediamo e che nell'aria di certe regioni ci provocano tanti disturbi. Purtroppo non l'avrei mai saputo. Quando cercavo di leggere nel suo viso, avrei voluto dirle: «Me lo dovreste dire, mi interesserebbe per conoscere una legge di storia naturale umana», ma in nessun caso me l'avrebbe detto. Per tutto quanto assomigliasse a quel vizio, professava un orrore particolare e manteneva una grande freddezza nei confronti delle sue amiche. Forse era proprio la prova che aveva qualcosa da nascondere, che era stata, forse, per questo motivo schernita o vilipesa, e l'atteggiamento che assumeva perché non si credesse nulla di simile era come la distanza rivelatrice a cui si tengono gli animali da chi li ha percossi. Quanto a informarmi sulla sua vita, era impossibile. Anche per Albertine, quanto tempo ci avevo messo prima di sapere qualche cosa. C'era voluta la morte per sciogliere le lingue, tanta era la prudente circospezione cui Albertine, come del resto questa giovane donna, si ispirava nella sua condotta. E poi, anche su Albertine, ero sicuro di sapere qualcosa. Inoltre, come le condizioni di vita che più desideriamo ci diventano indifferenti se smettiamo d'amare la persona che a nostra insaputa ce le faceva desiderare in quanto ci avrebbero consentito di vivere accanto a lei, accade lo stesso di certe curiosità intellettuali. L'importanza scientifica che ravvisavo nel conoscere quale genere di desiderio si nascondesse sotto i petali debolmente rosati di quelle guance, nella chiarezza, chiara senza sole come il crepuscolo del mattino, dei suoi occhi pallidi in quei giorni mai raccontati. Sarebbe certo svanita quando io avessi smesso del tutto di amare Albertine o di amare quella giovane donna. La sera uscivo solo nella città incantata e mi ritrovavo in nuovi quartieri come un personaggio delle mille e una notte. Era ben raro che le mie passeggiate all'avventura non mi facessero scoprire qualche piazza sconosciuta e spaziosa di cui nessuna guida, nessun viaggiatore m'aveva parlato. Mi ero inoltrato in un dedalo di stradine, di calli. Di sera, con i loro alti camini svasati, cui il sole conferisce i rosa più vivi, i rossi più tenui, è tutto un giardino che fiorisce sopra le case, con sfumature così varie che lo si direbbe piantato sopra la città, il giardino d'un coltivatore di tulipani di Delft o di Harlem. E d'altronde l'estrema vicinanza delle case faceva di ogni finestra la cornice da cui una cuoca guardava sognante o d'una fanciulla che, seduta, si faceva pettinare da una vecchia col viso indovinato nell'ombra da strega. Faceva come un'esposizione di 100 quadri olandesi giustapposti di ogni povera casa silenziosa e vicinissima, a causa dell'estrema strettezza di quelle calli. Compresse le une contro le altre, quelle calli suddividevano in tutti i sensi, con i loro solchi, la parte di Venezia ritagliata fra un canale e la laguna, come se si fosse cristallizzata seguendo quelle forme innumerabili, tenui e minuziose. Di colpo, in fondo a una di quelle stradine, sembra che nella materia cristallizzata si sia prodotta una distensione. Un vasto e sontuoso campo che, certo, in quel dedalo di stradine non avrei immaginato di tanta importanza e a cui nemmeno avrei saputo trovar posto, si stendeva davanti a me, circondato di palazzi incantevoli, pallido, di chiaro di luna. Era uno di quei complessi architettonici verso i quali, in un'altra città, le strade si dirigono, ci conducono e lo indicano. Qui sembrava essersi nascosto a bella posta in un intrecciarsi di stradine, come quei palazzi dei racconti orientali dove viene portato di notte un personaggio che, ricondotto prima di giorno a casa sua, non deve poter ritrovare la magica dimora in cui finisce col credere d'essere stato solo in sogno. Il giorno dopo andavo alla ricerca della mia bella piazza notturna. Percorrevo calli che si assomigliavano tutte e si rifiutavano di darmi la minima informazione, tranne che per disorientarmi meglio. A volte, un vago indizio che credevo di riconoscere mi faceva supporre d'essere sul punto di vedere apparire nella sua clausura, la sua solitudine e il suo silenzio, la bella piazza esiliata. E in quel momento, qualche genio cattivo, presa l'apparenza di una nuova calle, mi faceva tornare mio malgrado sui miei passi e di colpo venivo ricondotto al Canal Grande. E poiché non c'è grande differenza fra il ricordo di un sogno e il ricordo di una realtà, finivo col chiedermi se non fosse stato durante il mio sonno che s'era prodotta, in un'oscura parte di cristallizzazione veneziana, la strana ondosità offerta da una vasta piazza circondata di palazzi romantici alla lunga meditazione del chiaro di luna.